l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Sono pochi secondi dopo le 10.08, siamo in diretta da Radio 24 con lo spazio settimanale che dedichiamo all'Europa, al percorso comune europeo. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio europee, tante voci diverse per un cammino condiviso. Le coordinate virtuali euronetplus.eu, il portale che tra l'altro vi consiglio di visitare perché ci sono aggiornamenti quotidiani con tante dossier, tante interviste, tante notizie. Radio24.it, ovviamente il nostro sito. Sui social network invece ci trovate tramite chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, sia su Facebook sia su Twitter, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto. Radio 24 segue quotidianamente quella che è l'attualità, quella che è la politica, quella che è l'economia europea. Il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altri protagonisti di questa cosa strana, questa cosa fredda, ma che noi cerchiamo di riscaldare, che cerchiamo di trasformare in una grande opportunità che si chiama Europa. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte da Salonicco. Kommen Sie in Thessaloniki und bleib jung. Thessaloniki is a beautiful city with very friendly people and it's a city full of great potential for great things. It has different faces and different styles. Quello che state ascoltando è uno degli spot relativi a Salonicco, capitale europea dei giovani 2014. Il programma è stato lanciato durante un evento il weekend scorso, un anno intero in cui Salonicco, nella crisi greca, cercherà invece di portare, di risvegliare i giovani attraverso questo anno in cui è capitale europea della gioventù, dopo Maribor, appunto. Si va in Grecia per capire quello che accadrà, per capire anche il valore, come un evento di questo tipo va a trasformare una città. Con noi c'è uno dei collaboratori nella gestione dei volontari e diamo il benvenuto a Juanco Corales. Ciao Juanco. Buongiorno, sì, buongiorno Federico. Buongiorno a te. Tu sei spagnolo o greco? Io sono spagnolo. Okay. E cosa ci fai a Salonicco? Queste cose della mobilità delle popolazioni, sono venuto qua un po' di anni fa e sono venuto dall'Italia anche, non è che sono venuto dalla Spagna. Uh-huh. Io abitavo allora in quell'epoca lì a Torino e ho giocato con la moneta da dove andare, destra, sinistra, e sono andato verso l'Oriente, sono venuto qua a Salonicco. Ok, e adesso sei lì tra i volontari di questo anno che si è aperto alla grande. Cosa rappresenta per una città essere capitale europea dei giovani? E per una città come Salonicco essere capitale della gioventù per un anno vuol dire tante cose. La prima è quella, la possibilità di essere un punto di riferimento per le politiche giovanili, che come si pensano e come si propongono in Europa. Sì. Essere un punto di riferimento per tutti i grandi organismi che promuovono e che creano la politica e le politiche giovanili. Uh-huh. Dall'altra parte è una grandissima possibilità per la città di divenire un punto di riferimento, un turistico anche, per visite, per essere visitata dei giovani europei. Certo. Ma Salonicco è una città giovane, una città attenta ai giovani. Come mai è stata scelta Salonicco? Salonicco è stata scelta come è venuta scelta la città per tutte le città, anche Torino, attraverso una proposta fatta, messa a concorso tra altre città. La caratteristica è che la capitale europea della gioventù è quello che si promuove, che non siano delle grandi città, delle grandi capitali di nazione, può essere qualsiasi piccola città europea che pensi che ha delle cose da dire nel piano giovanile. Okay. Salonicco è stata scelta per il loro programma, per quello che ha proposto e anche per la maniera come è stata proposta quello che che si è pensato da proporre, di lavorare per quest'anno. Perfetto. E hai sfogliato il programma, immagino che tu lo conosca bene. Conosco bene, anche se è un programma che non è ancora finito, stiamo ancora perfezionando, finendo, aprendo tutti i rapporti. È un po' una pazzia questo, Federico, perché l'obiettivo è che quasi ci sarà durante tutto il 14 un'attività per giorno. Un'attività per giorno. Tante di queste attività hanno un carattere internazionale e tante altre un po' una proposta alla città di fare le loro proposte attraverso le ONG, i gruppi, le associazioni, i gruppi di volontariato, cooperative. E tutti quelli che si muovono intorno al mondo dei programmi della giovanile, di fare delle proposte appoggiati in questo caso per il comune, e creare un po' tirare fuori quell'attività dei giovani che normalmente non è che viene un po'. Non è che sia sempre la cosa più rappresentativa di una città. Assolutamente, quindi andare a scavare anche tra quello che c'è, quello che ci sarà giorno per giorno. Facciamo così, intanto guarda, ci ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate dell'Altra Europa, perché vorremmo seguire le vostre attività. Ricordaci il sito che credo sia il riferimento migliore per seguire tutti gli aggiornamenti. Si può guardare tutto nel sito, se è www. Thessaloniki con la TH, sì. Thessaloniki 2014.gr. Perfetto, abbiamo già pubblicato anche sulle nostre piazze virtuali Twitter e Facebook l'Altra Europa. Federico Taddia, le coordinate per conoscere tutto il programma. Grazie davvero, Franco, e buon lavoro. Ci ritroviamo presto qui all'Altra Europa. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Grazie. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Europa Creativa a Torino. Il nuovo programma Europa Creativa è appena stato lanciato dal Parlamento e tra poco saranno già disponibili i primi bandi per chi lavora nei settori della cultura e della creatività. Per saperne di più sul programma, sui bandi e conoscere le prime scadenze, la Fondazione CRT e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Antenna Media, organizzano a Torino un convegno internazionale con un Info Day che si terrà venerdì 6 dicembre al Teatro Vittoria a Torino. Per partecipare basta iscriversi sul sito della Fondazione CRT, fondazionecrt.it/creative-eu. Trovate informazioni sull'evento anche sul sito italiano del programma Media, media-italia.eu. L'Altra Europa. Of course there are benefits within the EU of free movement, but there should be proper transition controls. We increased the transition controls on Bulgaria and Romania from 5 years to 7 years when we became the government. But it still absolutely baffles me why the last Labour government in 2004 decided to have no transitional controls at all. They predicted 14... È il premier britannico Cameron quello che parla, che sta denunciando quello che ritiene un problema per la sua nazione. Dice che bisogna limitare la libertà di movimento nell'Unione Europea, bisogna impedire l'accesso perché c'è troppa immigrazione, perché troppi stranieri entrano. La pronta risposta della Reding, vicepresidente della Commissione Europea, che dice: il diritto alla libera circolazione è un diritto fondamentale e costituisce l'essenza stessa della cittadinanza dell'Unione Europea. Oltre 2/3 degli europei sostiene che la libertà di circolazione arreca vantaggio al loro paese. Dobbiamo rafforzarla e salvaguardarla. Proprio la Commissione Europea ha fatto uscire in queste ore un documento in 5 punti, con 5 azioni che possono andare a vantaggio dei cittadini, della crescita economica e dell'occupazione all'interno dell'Unione. Ma sono punti pratici, azioni pratiche, come contrastare i matrimoni di convenienza, come applicare norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione Europea, come affrontare nuove sfide riguardanti l'inclusione sociale, un tema caldo. E Cameron non è il solo, anche da Londra, anche da Parigi arrivano idee, arrivano pensieri relativi a chiusure o comunque a restrizioni riguardante l'immigrazione. Di tutto questo ne vogliamo parlare con il professore Maurizio Ferrera, docente di teoria politica all'Università degli Studi di Milano, che proprio un paio di giorni fa ha scritto un articolo sul Corriere della Sera intitolato L'Europa, la prova della cittadinanza. Buongiorno professore, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. L'Europa della cittadinanza, che è il fulcro, è il cuore di questa Europa. Perché questo titolo? Qual è la prova che ci aspetta? Dunque, l'Unione Europea si fonda su due principi di legittimità. Uno è quello che essa rappresenta i popoli europei, l'altro è che essa rappresenta i cittadini europei, i singoli individui dei popoli europei. La cittadinanza è stata storicamente inventata dall'Europa, sì, come strumento di tutela dei diritti del cittadino. Quindi o l'Europa, i paesi europei sono capaci di reinventarsi la nozione di cittadinanza, i suoi contenuti, trasferendola a livello sovranazionale o quantomeno trovando dei raccordi tra le cittadinanze nazionali e quella europea, oppure l'Europa non andrà avanti. L'Europa è un po' come una bicicletta, procede su una strada accidentata, spesso incontra degli ostacoli, ma l'unico modo attraverso il quale può rimanere in equilibrio è andare avanti, pedalare, e questa è una di quelle giunture, di quei passaggi sulla strada accidentata dell'avanzamento che necessita di andare avanti, di pedalare, non di tornare verso l'indietro, verso il passato. Quello che sta succedendo, quello che è successo in queste ore a Kiev, secondo lei è un pedalare avanti o un pedalare indietro invece? Ma guardi, tutte e due, nel senso che da un lato le ambizioni di aprire le frontiere o quantomeno abolire i visti con i paesi dell'ex Unione Sovietica era un'ambizione eccessiva, e questo ha probabilmente anche causato le reazioni forse anche un po' sopra le righe di Cameron, che hanno portato a un eccesso in direzione opposta, e cioè quella di mettere addirittura in discussione la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Sono due problemi diversi. Un problema è quello di come garantire la libertà di movimento, compreso l'accesso al welfare, di coloro che hanno il passaporto e la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Certo. Un conto invece è stabilire delle regole nei confronti di tutti coloro che sono stranieri in senso stretto, cioè che non appartengono ai paesi dell'Unione Europea. Ecco, a Kiev, a Vilnius, cercava di individuare le regole per l'accesso dei cittadini stranieri in senso stretto, cioè quelli che risiedono e che hanno la nazionalità dei paesi ex sovietici. Siccome si voleva rendere queste regole più severe, più rigide, lo si è fatto mettendo anche in discussione il principio della libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea, una mossa, se vogliamo, un po' tattica, anche se naturalmente poi ci sono dei problemi reali. Certo, comunque è la crisi il motore. Adesso stavo rileggendo un po' le dichiarazioni di Cameron, anche questo forte attacco nei confronti soprattutto dei romeni e dei bulgari, è la crisi la vera motivazione o la crisi è un alibi per nascondere anche altre politiche, secondo lei? Ma la crisi ha un suo ruolo, sì. Tuttavia c'è una motivazione molto evidentemente politica in Inghilterra in questo momento. Cameron è incalzato da partiti, in particolare il partito indipendentista, che vorrebbe non solo fare un referendum sull'appartenenza dell'Unione Europea, della Gran Bretagna all'Unione Europea, ma addirittura vorrebbe fare una campagna molto aggressiva per far uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi Cameron deve difendersi da questi attacchi, cercando di convincere quegli elettori, magari che si potrebbero far sedurre dalle sirene di questo partito indipendentista e che sono magari preoccupati per quello che loro percepiscono, questi elettori, come un eccesso di immigrazione. Quindi è un messaggio in parte inviato a questo segmento di elettorato che potrebbe essere sedotto dall'idea, che Cameron forse però personalmente non condivide, che la Gran Bretagna dovrebbe uscire dall'Unione Europea. Ma in vista delle elezioni, secondo lei anche la Merkel diventerà un po' meno europeista? Ma è probabile che questa stessa logica sarà seguita anche dalla grande coalizione, dal nuovo governo tedesco, perché già nelle elezioni tedesche dello scorso settembre si è presentato un partito che poi non è riuscito ad arrivare in Parlamento, che metteva in discussione molte regole, molti principi dell'Unione Europea, ma anche in parte la libertà di movimento. È probabile che questo stesso partito e forse persino altre formazioni politiche di marca euroscettica faranno campagna in Germania in vista del rinnovo del Parlamento europeo, per cui la Merkel dovrà, come Cameron, anche lei difendersi da questi rischi. I socialdemocratici, che invece non hanno forse questo problema, perché i partiti euroscettici sono un pericolo soprattutto per i partiti di centro o di centrodestra, i socialdemocratici hanno un altro problema, e cioè che in molte città tedesche, in molte zone, soprattutto quelle più vicine ai confini orientali, c'è in effetti una concentrazione di immigrati polacchi, dei paesi dell'est europeo, che nella percezione degli elettori socialdemocratici sono visti come minaccia ai loro posti di lavoro, alla loro sicurezza, l'accesso al welfare viene visto da parte di questi immigrati come qualcosa di opportunistico, e quindi queste percezioni favorevoli a restrizioni ci sono anche nell'elettorato socialdemocratico, e questo potrebbe in effetti far sì che si crei una convergenza di interessi fra la Merkel e i socialdemocratici, a chiedere, non con la stessa aggressività di Cameron e nemmeno con la stessa agenda di Cameron, ma a non essere totalmente sfavorevole a una revisione in senso restrittivo delle attuali regole. Vedremo, ci aspettano mesi caldi, ma saranno anche mesi interessanti e mesi decisivi per la nostra Europa. Grazie davvero, professor Ferrera, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. La pubblicità, prima un Europostit, poi torniamo qua con l'altra Europa. Con noi ci sarà poi Serena Dandini, e non solo, parleremo di Rom, parleremo di Caffè Babel. Europostit. Tirocini al Ministero dell'Economia. Siete laureandi o laureati e volete fare un'esperienza di lavoro in una istituzione? Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione 42 posti per tirocini retribuiti nei suoi uffici, nella sede centrale, ma anche in quelle periferiche. Il tirocinio durerà 4 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 2 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi. Tra i compiti, i tirocinanti dovranno elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti, ma anche per la propria tesi o per il proprio percorso formativo. Tutte le candidature verranno preselezionate dalle rispettive università dei candidati e poi esaminate da una commissione congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Fondazione CRUI. Gli stage partiranno il 10 febbraio 2014. Per partecipare e leggere il bando, andate sul sito della Fondazione CRUI, fondazionecrui.it/tirocini. Per candidarvi avete tempo fino al 2 dicembre 2013. L'altra Europa. Thank you. sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Quella che state ascoltando è musica, è un nuovo estratto del CD etno-sinfonico romano Dives, che verrà presentato durante un concerto molto importante, molto particolare, che si terrà presso la cattedrale di Teramo il 4 dicembre. E ci piace portare questa musica, perché portando questa musica si porta la cultura rom. Ieri l'altro sul Sole 24 Ore c'era un bellissimo articolo intitolato "Promuovere l'autoaffermazione e l'inclusione dei rom in Europa". Sono oltre 10 milioni i rom in Italia, in Europa, concentrati soprattutto nei Balcani, nei nuovi stati membri dell'Unione Europea, in particolare Romania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria. 10 milioni di rom, diverse centinaia di migliaia di bambini che quotidianamente vanno o dovrebbero andare a scuola, perché l'inclusione parte soprattutto da lì, parte dalla scuola, parte dalla cultura. E tutto questo lo sa molto bene Santino Spinelli, in arte Alexian, un rom italiano residente in Lanciano, ambasciatore dell'arte e della cultura romani nel mondo, titolare di una cattedra accademica. È lui che ha organizzato il concerto, è lui che ha organizzato il festival, è lui che ha il telefono con noi. Ciao Alexian. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa stiamo ascoltando intanto? Partiamo appunto dalla musica, partiamo dalla cultura. È Romano di Ves, che significa il giorno della festa di Roma, e il brano che poi dà il titolo a tutto il CD che sta per uscire, appunto, con l'Orchestra Europea per la Pace, promosso questo CD dal Consiglio d'Europa, da Amnesty International e dall'UNAR, che è il Dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità. Questo concerto rientra nel festival, alexian.it è il sito per conoscere anche tutto il programma di questo festival, che sì, è stato inaugurato ieri o ieri l'altro, se non erro. In questo, guarda, sono un po' stonato con le date, non so bene quante ne abbiamo oggi, quindi continuo. Sì. Allora, il concerto del 4 è organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana di Teramo, e ringrazio la sua eccellenza il vescovo Michele Seccia per la sua enorme disponibilità. Quindi portare un concerto con l'Orchestra Europea per la Pace all'interno della cattedrale, una struttura così bella, romanica, poi soprattutto un luogo sacro, credo che sia un passo importantissimo. E in questa occasione però eseguiremo un repertorio religioso, proprio per essendo vicini alla Madonna, come dire, alla festa dell'8 di dicembre, si è pensato di fare questo concerto. Alexan, ma cosa significa fare cultura rom? Cosa significa partire dalla cultura rom per fare inclusione, ma proprio a livello europeo? Perché la cosa bella della cultura rom è proprio anche la trasversalità, no? tra nazioni. Certo. Ma sicuramente non ci può essere integrazione o inclusione senza la valorizzazione culturale, è impossibile. La nostra è una diversità non biologica, come qualcuno vuole far intendere, ma è culturale ovviamente, e quindi il nostro grande patrimonio è la cultura. Da tenere presente in maniera particolare che la musica romanì, quando è entrata a far parte del patrimonio etnofonico dei paesi ospitanti, ha generato arte e stili musicali. Pensiamo al flamenco in Spagna, o la charda sol verbuncos in Ungheria, ma tanta musica balcanica, lo stesso jazz manouche in Francia. Pochi sanno che il jazz europeo, il jazz autoctono, praticamente lo ha inventato di sana pianta un manouche, che è Django Reinhardt, che non sapeva una sola nota di musica e che non aveva assolutamente letterato, addirittura anche menomato in una mano, la mano sinistra, e suonava la chitarra con due dita. Quindi ecco, l'apporto di Roma è immenso. Mm-hmm. Anche da un punto di vista strumentale, se pensiamo che i rom che provengono dall'India hanno portato appunto dall'Oriente, dal santur indiano, uno strumento che si chiama Cimbalom, che è stato introdotto nell'Europa orientale, in maniera particolare in Romania e in Ungheria. Ebbene, da questo strumento nasce il clavicembalo. Clavi in tedesco significa tastiera, una tastiera applicata al Cimbalom di Rome. Per altre vie, per altri cammini, nasce il pianoforte, perché nulla si inventa ma tutto si trasforma. Alexa, così come... Prego. Perché c'è un altro strumento importante che i Roma hanno introdotto in Europa, in maniera particolare nell'impero bizantino, che è la zurna o zurla. Ebbene, da questo strumento così popolare nascono altri due strumenti, la ciaramella e l'oboe. Alexa, ma nella tua esperienza, l'esperienza professionale, che è quella della musica, poi c'è l'esperienza accademica, poi c'è l'esperienza di chi viaggia comunque in Europa per portare questi messaggi, come fai a coniugare, qual è il lavoro quotidiano anche per coniugare questa tradizione, questa cultura, questa poesia con la realtà, che a volte è ben diversa, un po' per un carico di pregiudizi che accompagna la cultura rom, altre volte anche per atti reali, no? Perché dietro alla cultura rom a volte, spesso, troppe volte c'è comunque delinquenza, c'è violenza, c'è illegalità. Chiedo scusa, però non bisogna distinguere quelle che sono le espressioni artistiche e culturali, certo, da quelle che sono i fenomeni sociali. Noi non possiamo confondere la mafia con la cultura italiana o con la bellezza della musica di Verdi o di Puccini. Ecco, bisogna distinguere le dimensioni, esistono, perché ecco, l'errore che si fa è elevare a modello culturale un fatto di cronaca. Questo è assolutamente sbagliato. Tra parentesi, bisogna ricordare che i Rom non sono nomadi, per cui, per cultura, attenzione, e allora non si capisce perché bisogna avere i campi nomadi, che sono una forma orrenda di segregazione razziale e di apartheid, che porta a tante conseguenze, a tanti effetti collaterali che vengono scambiati per cultura. Nulla di più falso e mistificatorio. Quindi la bellezza della lingua, della letteratura, dell'arte, della musica di Rom, Sinti, Calè, Manouche, Romani Charles, questi cinque grandi gruppi che hanno nel loro interno centinaia di comunità diversissime, tra parentesi, fra di loro, ecco, tutto questo enorme patrimonio artistico culturale è assolutamente sconosciuto alla maggioranza dell'opinione pubblica. Purtroppo solo la cronaca ne fa da padrone, ed è chiaro ed evidente che se si punta soltanto a come strategia politica a una propaganda romfobica, è chiaro che i rom poi subiscono le conseguenze di essere marginati da un punto di vista sociale e da un punto di vista culturale. Allora il mio lavoro è esattamente quello di promuovere arte e cultura, favorendo anche la difesa dei diritti umani, diritti di tutti, che dovrebbero essere inalienabili e dovrebbero essere riconosciuti a tutti, anche perché la Costituzione italiana la riconosce, le convenzioni internazionali le riconoscono e soprattutto la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Certo, non a caso il Consiglio d'Europa è partner della tua attività, infatti, del tuo concerto. Cosa può, prima di salutarci, qui si parla di altre Europa, no? Quindi l'Europa che esce anche dal palazzo e cerca di scendere in strada, di scendere nella quotidianità. Secondo te, realisticamente, la cultura rom cosa può portare oggi all'Europa? Tantissimo, allora ho fatto prima l'esempio del musicale, certo, ma se pensiamo che nel periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazioni, di folklore locale, di radici culturali, i grandi compositori europei hanno attinto a piene mani da questa tradizione musicale. Pensiamo Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Debussy, Ravel, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvořák, Béla Bartók, fino ad arrivare ad oggi a Goran Bregovic. La lista è lunghissima. Però il mio tentativo è esattamente il contrario, cioè questi grandi compositori hanno acquisito la musica roma e l'hanno posta nella musica classica. La mia operazione è esattamente il contrario, cioè un'orchestra etnosinfonica che accompagna un gruppo rom senza assorbire la musica romani, ma riconoscendola e soprattutto valorizzandola. Ecco, è che il 4, alla presenza di tante personalità, vorrei citare il direttore dell'Ufficio Nazionale del Consiglio d'Europa, il dottor D'Alessandro, il senatore Furio Colombo e tantissime altre personalità, tra cui il portavoce in Italia di Amnesty Amnesty International, Riccardo Nuri, saranno presenti in cattedrale il 4 dicembre per questo grande evento artistico-culturale, che non va confuso, attenzione, con fenomeni sociali, non c'entra nulla. Certo. È come dire, la Scala di Milano, c'è una rappresentazione operistica e poi si confonde quell'evento con la mafia o con terrorismo o la pedofilia. Cioè, è assurdo fare questo tipo di collegamenti. Lo fa soltanto chi è in malafede e vuole promuovere una politica romfobica. Grazie davvero ad Alexian, alexian.it, e in bocca al lupo per il festival, in bocca al lupo per il concerto. Grazie, permettetemi un saluto caloroso e fraterno in lingua romanì. Gut Bacht da Sastipè, che voi possiate essere sani e fortunati. Grazie, grazie. Ciao, ciao Alexian. Questa è la musica di Alexian, adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. You are welfare, il più bel lavoro del mondo. Sono aperte le iscrizioni per You Are Welfare, il più bel lavoro del mondo 2013-2014, il primo concorso nazionale per startup a finalità sociale organizzato da Make a Change, movimento italiano per la promozione dei valori del business sociale in Italia, e Reale Mutua Assicurazioni. Make a Change vuole premiare i progetti di impresa sociale che contribuiscano a implementare le politiche di welfare statali. Attraverso il concorso rivolto a tutti coloro i quali propongono un progetto di startup per lo sviluppo e avvio di un'impresa a scopo sociale sul territorio italiano. Sono ammessi alla competizione unicamente quei progetti di impresa sociale che abbiano per oggetto quei servizi che riguardano da vicino i cittadini e i loro bisogni lungo il loro ciclo di vita. Il progetto vincente riceverà 40.000 euro tra finanziamento a fondo perduto e servizi di incubazione per 6 mesi presso Make a Cube. Per presentare i progetti c'è tempo fino al 31 gennaio. Per saperne di più andate su makeachange.it e cercate You Are Welfare. L'altra Europa. Life, destiny. They don't know it yet, but in 20 years from now, their dream will come true. Beginnings. Curiosity. Awakening, discovery, perseverance, focus, will. Quello che state ascoltando è un promo di una business school. Vi voglio, attraverso questo promo, consigliare la lettura di un bellissimo articolo di Alexander Damiano Ricci sul portale Caffè Babel. Sapete, Caffè Babel è questo progetto che coinvolge tantissimi giovani di tutta Europa, sono volontari che scrivono di Europa e di utopie europee. In particolare c'è un'analisi molto ben fatta relativo al mondo delle start-up a livello comunitario, e abbiamo già pubblicato il link sulle nostre pagine in Facebook e in Twitter. Leggetelo davvero, perché credo che sia un tuffo di sano realismo, perché le startup sono sicuramente sinonimo di innovazione, sinonimo di cambiamento, però anche qui dietro la parola startup troppe volte ci si nasconde per non fare poi investimenti veri là dove servono, e questo articolo insomma è abbastanza illuminante. caffabebel.it. Adesso invece cambiamo completamente discorso, lo facciamo molto volentieri perché a parlare di un tema forte, che è quello relativo ai diritti delle donne, alla violenza contro le donne, tema di cui si è parlato molto questa settimana perché c'era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Beh, c'è stato un appuntamento importante anche a Bruxelles, una tappa di un tour molto importante e non ancora finito, che sta tenendo Serena Dandini col suo spettacolo, col suo progetto teatrale Ferite a morte. E Serena è qua con noi. Ciao Serena, benvenuta all'Altra Europa. Ma grazie, veramente mi fa piacere poi che se ne parlino nel 25, no? È vero, perché... è il solito rischio, vero, che se ne parla un giorno e poi si chiude. Esatto. Hai fatto tappa a Bruxelles. Non so la linea com'è perché adesso sono a Londra. Infatti. Sono arrivato da Bruxelles e venivo da Washington e da New York. Sembra un po' una follia detta così, però è vero, anch'io non ci credo, ma insomma è così. Sarei a Londra perché hai l'ultima data di questo tour, sì. Domani o dopo. Guarda, sto facendo oggi confusione con le date, quindi il 3. Il 3 a Londra, nell'ambito della Rotary Foundation. Siamo stati invitati con il progetto Ferite a morte, che come sapete è un reading dove donne di tutti i tipi, da felici famosissime, a Londra ci sarà non so Salma Hayek per dire, a invece donne delle istituzioni, a donne normali tra virgolette, perché sono donne normali tutte, poi certo. Leggeranno questi monologhi che sono inventato e mai avrei pensato di portare intorno al mondo. Evidentemente, ahimè, il tema è caldo, il tema è internazionale, questo è il problema, perché partito dall'Italia, che siamo sempre fanalino di coda, una volta tanto diventiamo motore per spingere a allargare le coscienze. Infatti sei stata a Bruxelles, oltre a essere stata a New York, alla sede delle Nazioni Unite, sei stata a Bruxelles. Palazzo di vetro addirittura. Stavo di stare su scherzi a parte, non ci potevo credere. Invece era tutto vero. Di vetro, voglio dirvi questo. Sei stata a Bruxelles, che è il cuore dell'Europa, quindi il luogo assolutamente significativo anche per il nostro programma. Qual è stata la reazione? Perché hai detto appunto che è un problema internazionale e hai capito che c'è proprio anche un approccio comunitario, un approccio culturale comune a questa problematica. No, non c'è ancora. L'Italia, come vi dicevo, sapete che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, ma per esempio la Francia e la Spagna ancora no. Quindi altri stati membri devono ratificarla per far sì che si trasformi in legge, che sono leggi virtuose, che in altri paesi sono state applicate e hanno portato risultati. Quello che voglio dire è che la violenza domestica e il femminicidio non sono destino ineluttabile, come spesso si pensa, no? Come vabbè, fa parte della coppia, tra moglie e marito, succede. Non è così. Si può cambiare, questo voglio dare questa notizia straordinaria. L'Europa, noi eravamo già stati a Bruxelles al Parlamento Europeo, quindi era una cosa ufficiale. Da lì è arrivato l'invito a farlo in un teatro. Sì. Che è abbastanza impressionante perché significava proprio andare al pubblico ed è stato straordinario perché capisci che tutto in francese naturalmente ce l'abbiamo fatto, che questo dramma ha un linguaggio comune, paesi occidentali c'è longitudine, latitudine, può cambiare, naturalmente viene coniugato attraverso culture delle regioni diverse, ma poi alla fine il succo è una cultura di cui siamo immersi e che dobbiamo in qualche modo vincere, insieme a voi uomini però, quindi è molto importante che sono in collegamento con te, sono anche io. Sì, perché insomma si può fare, perché dobbiamo fare tanto, non solo nelle azioni ma proprio anche nel diffondere, no, la nuova cultura. Ho visto in Europa quello che può essere interessante. Scusate l'italiano ormai completamente contaminato, ma è molto interessante il fatto che in alcuni paesi nordici ho fatto delle interviste con telegiornali, c'era anche paesi insospettabili come Norvegia, Danimarca, e dove per esempio la giornalista dice certo in Italia questa cosa dell'onore, e io dice guardi, voglio dire che le statistiche vostre sono peggiori delle nostre riguardo alla violenza domestica, quindi forse sarebbe il caso che anche voi riflettesse. Allora, ci sono dei paesi del nord Europa che non lo hanno come issue perché lo rifiutano, mm-hmm. In qualche modo ancora non l'hanno come d'altronde succedeva in Italia un anno e mezzo fa, che è ancora considerato una, come dire, underestimated, come si dice, no? Il problema sotto stimato. Sì, sì, certo. E questa è una cosa abbastanza interessante, perché invece io uso il teatro, che è il mio mezzo, però a volte il teatro arriva, ho visto, la pizza, ma la drammaturgia, dove tanti discorsi seri e convegni, per quanto virtuosi, non arrivano. Invece il teatro arriva allo stomaco, al cuore, riesce a creare un cortocircuito, no? A coinvolgere. E finito lo spettacolo, come sei? Arrabbiata? Sei tranquilla? Commossa. Commossa. Perché devo dire, avviene una chimica particolare tra l'audience e il palco. Uh-huh. E succede qualcosa, no? Sai quando proprio senti che è successo qualcosa di emotivo, forte, che spero, mi auguro si trasformi poi in allargamento di coscienza, specialmente poi rispetto agli uomini che naturalmente vengono a teatro più che a un convegno, per dirsi. Però, perché come ti dicevo, è una battaglia, una guerra che si può vincere solo insieme. Assolutamente. Ha a che fare con i rapporti di coppia, sentimentali, con rispetto di genere, di diversità dei sentimenti, proprio un'educazione ai sentimenti diversa. È un'educazione alla relazione. Serena, grazie davvero. Esatto. Ricordiamo il sito, che è feriteamorte.it, per tutte le informazioni, e in bocca al lupo per la tappa di Londra. Grazie ancora per essere stata con noi. Figurati, grazie a voi. Grazie Serena, ciao. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Margherita Aina, che con me ha scritto la puntata. Oggi Peter Berscapè alla parte tecnica, in assistenza, non mi ricordo il nome, Isotta. Grazie anche a te. Radio24.it per riascoltare la puntata in podcast. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.